Cioè, quindi devo andare a questo seminario in cui mi avete chiamato per raccontare i miei dischi. Come vi racconto, non canto niente. No, questi ultimi dischi... Partiamo dal disco toscano, giusto? Bene una serpe, che nasce dalla mia frequentazione con la Caterina Bueno, che è una frequentazione musicale, perché io dicevo prima a lui che fino a 30 anni io la musica italiana e neanche popolare l'ascoltavo, ecco, molte grazie. E che sono diventato un cantautore perché non avevo il fisico per fare il hip hop, ecco. Poi a un certo punto ho incontrato, quando avevo tipo il hip hop, che faccio notare che qua fra pochi giorni ci saranno i Not Moving con Dom e la Muerte, amico mio, DJ della mia giovinezza, con il quale stiamo facendo un progetto di canzoni e di storie di Iggy Pop, Lou Reed e David Bowie, e io mi sto divertendo tantissimo a cantare Iggy con Dome che mi suona. Iggy è vivo, sembra, pare. C'è un'intervista che gli hanno fatto di recente, diceva sì, ma a lei si sente un miracolato? Fa assolutamente no. Lo dice anche il mio psichiatra, che io ho sempre avuto una grandissima virtù. So dove posso spingermi. E cazzo, si può spingere veramente fino in fondo? Diceva nella stessa intervista che lui per anni fumava le ragnatele anche, per sballarsi. Comunque, insomma, Caterina, a un certo punto incontro Caterina, il disco di Caterina, e mi innamoro di questa roba, che non avevo mai sentito né conosciuto. Avevo le sonorità del dialetto toscano nelle orecchie perché mia nonna, con cui ero cresciuto in stanza, era valdarnese, quindi quella sonorità lì ce l'avevo addosso, ma per il resto non sapevo niente. Però senza sapere niente di tutto quel mondo lì mi sono innamorato di quel mondo lì, e da lì ho cominciato la mia catabasi, insomma, storico-geografica nella toscanità, no? Finché poi ho conosciuto 2 anni dopo la Caterina, la invitai subito a Massa e la portai all'osteria di cui dicevo poc'anzi, che era sempre la solita osteria di Giuston, e tante volte ci siamo incontrati, conosciuti, amicati, insomma. E quindi dopo tanti anni ho deciso di fare uno spettacolo dedicato al canto popolare toscano e alle storie di Caterina, e lo feci al Teatro della Cooperativa Renato Sarti, e da lì poi l'ho portato in giro, e da lì poi è nato questo disco che lo scorso anno poi è stato finalista al Tenco, che ovviamente per me è stata una soddisfazione enorme mettere in scena questa cosa. Quindi cosa volete che vi suono? Massimo, te che le conosci, dimmelo te. La prima, che sarebbe questa canzone meravigliosa d'amore, che è una serenata, che un giorno io ho sentito cantare, insomma. In realtà questa non c'è nessuna incisione di Caterina che canta questa qua, però ovviamente Caterina l'amava, però non l'ha mai incisa. E un giorno, leggendo lo Zibaldone su una spiaggia di un'isola greca, trovo tra una nota sulla traduzione del latino e l'altra delle rammemorazioni di Giacomo Leopardi, il quale dice: mi ricordo queste canzonette popolari che ascoltavo sotto il balcone del palazzo quando stavo a Recanati. Quindi gli erano rimaste impresse, se le ricordava a memoria, e dopo tanti anni è lì evidentemente che sta ragionando sulla traduzione dal latino, e c'è questa urgenza di trascriverle per non scordarsene più, no? E tra queste 3 canzonette popolari che trascrive c'erano 2 versi che erano proprio l'inizio di questa serenata che io sentivo cantare in Toscana, no? Che quindi evidentemente era internazionale, perché dalla Toscana il canto popolare poi fa così, no? Si ramifica e va altrove, insomma, no? Ed era questa qua. Io benedico chi va fatto gli occhi, chi ve li ha fatti tanto innamorati. Da sottoterra levereste i morti, dal letto levereste gli ammalati. Se dormi svegliati, fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Se dormi svegliati, fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Tanto lavoro e tanta lavoranza, vostri begli occhi son la mia speranza. Tanto valore e tanta valoria, vostri begli occhi la speranza mia. Fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Se dormi svegliati, fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Io ti vorrei veder nel mio giardino e vederti sbocciar come una rosa. Io ti darei volentieri un bacino, se sei contenta ti farei mia sposa. Se dormi svegliati, fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Dormi svegliati, fanciulla adorata, la serenata la canto per te. Ecco. Poi che ne so, si potrebbero dire veramente un sacco di cose sulla Caterina. Lei per esempio aveva due canzoni di battaglia, due canti di battaglia, no? Due cavalli di battaglia, che rappresentavano due parti della sua anima, della sua attitudine, della sua vita, no? L'anarchia e l'amore, no? Lei cantava canzoni d'amore, che sono poi le due. Tutto sommato questo spettacolo, il disco che ho fatto, la selezione, la trascelta che ho fatto sono essenzialmente, prima più che il resto, canzoni d'amore e canzoni d'anarchia. Ovviamente c'erano tante altre canzoni, canzoni di lavoro, canzoni che avevano a che fare con raccolto, canzoni sui maggi, canzoni, no? Ma io, seguendo la mia attitudine, seguendo le mie passioni, questo disco l'ho fatto per pura passione mia, non per intento filologico, insomma, no? E quindi ho selezionato principalmente le canzoni che amavo, che principalmente erano canzoni d'amore e canzoni di anarchia. Il resto, quel disco che mi aveva fatto innamorare la Caterina, si chiamava Canti di Maremma ed Anarchia, no? Forse lo sapete, insomma, che la Caterina Bueno, come tanti altri ricercatori, prendeva il suo registratore a nastro, andava in giro con la sua 500 per la campagna toscana e cominciava a registrare, no? a farsi cantare le storie, le canzoni dalle persone che incontrava nelle osterie, no? Nei paesini, eccetera. E quindi vi canto queste due canzoni che sono appunto i due cavalli di battaglia. Una canzone d'amore, che è un rispetto. Si chiamavano rispetti perché si cantavano in segno di rispetto, no? Per l'innamorato, per l'innamorata. Sono di tanti tipi di rispetti. Questo è un rispetto non solo d'amore, in realtà è un rispetto d'amore ma molto dolente, perché l'aria, l'incedere, la versificazione è un rispetto, però è un rispetto strano, appunto, perché in realtà parla della lontananza di un amore che è andato in Maremma, e che in Maremma sapete che c'era la bonifica, era una zona tutta quanta paludosa, no? Quindi nell'Ottocento si erano intensificate, erano riprese queste bonifiche che appunto fanno della Maremma poi una zona non più paludosa nel corso dei decenni, e tanta gente andava in Maremma per bonificare, partendo specialmente dalle montagne dell'Appennino, in particolare dall'Appennino Pistoiese, e un sacco di gente ci moriva perché c'era la malaria, la febbre maremmana, come si chiamava allora, no? E quindi questo rispetto d'amore è un rispetto per cui questa ragazza canta alla persona che è lì a lavorare, sperando che lei non faccia la fine di quell'altra persona a lei cara, che invece dalla Maremma non era più tornata. L'altro canto invece era un canto che, appunto, era un canto anarchico che stava sempre in questo disco qua, di cui mi innamorai nel 98, che era un canto socialista, anarchico, insomma, non si sa l'origine esatta di questo canto. Sono state fatte tutta una serie di ipotesi, insomma, a cosa potesse essere legato. Lei lo raccolse a San Giovanni Valdarno, e Gian Piero Bigazzi, che è il fondatore della Materiali Sonori, no? L'etichetta discografica che poi ha distribuito il mio disco solista del 2015, Tutto inizia sempre, lui è di San Giovanni Valdarno e lui si ricorda questo vecchio partigiano che si chiamava Chionne, che cantava quando lui era giovane, negli anni 60, Battanlotto, e poi lo sentì Caterina. Però se non ci fosse stata Caterina, quella canzone sarebbe rimasta San Giovanni e sarebbe morta col Chionne, e invece Caterina Bueno l'ha fatta conoscere a tutti quanti, no? Ed è questa qua. Anch'io da socialista, oh, mi voglio vestire bello gli è il rosso, rosse son le bandiere, ma verrà qui giorno della rivoluzione, infame società, dacci mangiare. Verrà qui giorno che la dovrai pagare, verrà qui giorno della rivoluzione, ma verrà qui giorno della rossa bandiera, infame società, dovrai pagare. Versione accorciata. C'erano ancora altre strofe. Ecco. Io di Caterina, visto che oggi ero qua a parlare invece dei miei libri, forse il mio più grande cruccio da scrittore è stato di non aver potuto scrivere la biografia di Caterina, perché Caterina ovviamente raccontava un sacco di storie, però lei non aveva mai voluta scrivere una sua biografia, e nel 2006 ogni tanto ci telefonavamo, insomma, no? E spesso erano telefonate alcoliche, in realtà. Non voglio dire che ero suo amico, però c'era un buon rapporto. Insomma, lei mi aveva detto che lei amava. Una volta mi disse: io, i miei cantanti preferiti siete voi due, perché all'epoca nelle Zanarchist cantavamo in due. I miei cantanti preferiti in assoluto siete voi due. E per cui, insomma, c'era questo rapporto. E una volta avevo provato a organizzare un tributo perché comunque lei non c'aveva veramente una lira, perché comunque no, dopo gli anni 70 eccetera, insomma, poi a un certo punto non ti chiama più nessuno, viveva veramente in qualche modo in povertà, e nonostante la famiglia di provenienza era una famiglia ricca, ma lei non voleva assolutamente niente dai suoi familiari, quindi, e gli diceva: proviamo, c'è un sacco di gente che ti deve delle cose, no, musicalmente, quindi proviamo a organizzare qualche cosa, fosse un concerto, no, che poi l'incasso va a te. Quindi avevo contattato anche la banda Bardot, Guccini, Piero Pelù, tutti erano disponibili a farsi, poi non si fece mai. E lei mi disse: ma non lo so, i tributi si fanno a morti. Niente, vabbè, ma insomma, dai, però. Fa: va bene, dai, basta che lo organizzi te, io però non voglio sapere niente, io non ci sono dietro, adesso è tutta roba tua, no, non ti preoccupare, ci penso io. Poi in realtà, non essendo io David Zard, insomma, organizzare un concerto, insomma, implica cose che non potevo fare da solo, nessuno mi dava una mano, insomma, la cosa, per cui. Poi i tributi li fanno veramente molti, perché quando muore qualcuno, i tributi si trova sempre il modo di farli. No? Quando uno è vivo, quando invece lui magari ne avrebbe bisogno, i tributi non si fanno. Ecco. E questo è un problemino, no? E appunto poi una volta nel 2006 gli dissi: ma perché ci incontriamo io e te, io ti registro, te cominci a raccontare le storie e poi la biografia la scrivo io, te racconto, non ce ne voglio scrivere, benissimo, te mi racconti le cose, poi il libro lo faccio io. E lei mi disse di sì. Poi quell'anno lì era uscito proprio il mio primo libro per Burr, Lager Italiane, no? Che raccontava appunto i centri, gli allora CPT, insomma, i centri di detenzione, che era il primo libro in assoluto che veniva scritto su questa cosa, per cui quell'anno ero continuamente in giro, mi chiamavano ovunque per presentare questo libro nel 2006, e quindi non avevo tempo per fare nient'altro, no? E cioè, vabbè, poi Caterina comunque era giovane, non è che, invece poi nel 2007 è morta, e quindi sta roba qua non si è mai fatta. E questo devo dire che da scrittore è il mio più grande crucio, non aver raccontato quelle storie meravigliose che lei poteva, no? È un po' questo. Che cosa posso fare? C'è da dire che a breve uscirà un film su Caterina Mugno, no? È stato fatto un film. Sì, è stato finalmente prodotto. Sì, mi è arrivato l'altro giorno una mail della prima che faranno a Firenze, non mi ricordo la data, comunque sì, che è stato impegnativo fare quel film, perché si trattava di mettere insieme un sacco di pezzi documentari che insomma ritrovare, rintracciare, o anche semplicemente pagare, togliendogli dagli archivi della RAI che ti fa pagare un'infinità di soldi per farti a minuto definati archivio che magari nessuno vede, ma comunque per averli devi pagare una marea di soldi, insomma, però alla fine hanno fatto il crowdfunding e adesso sono riusciti a farlo, insomma. Sono molto curioso di vederlo. Non so se è sul, non mi ricordo se è sul 107, che è una delle più belle canzoni che... Sì, le canzoni che una volta io che è una storia di galera anche questa in realtà, però appunto non politica, perché c'è questo Cesare Battacchi che non si sa bene chi fosse ancora una volta. Una volta Caterina mi disse che aveva trovato da qualche parte, non so dove, che forse poteva essere uno che aveva ucciso sua moglie, insomma, un uomo che aveva fatto quello che si chiamerebbe oggi femminicidio, insomma. Ma però è una canzone in realtà che racconta in maniera mirabile la condizione carceraria, insomma, no? Tant'è vero che una volta, un paio d'anni fa, ero andato in carcere a Massa a fare una conferenza che mi hanno chiesto di fare per i carcerati, in cui parlavo della scrittura, no? Poi ovviamente in carcere c'è tanta gente che ama scrivere, no? E quindi parlai della scrittura, dei libri, eccetera, poi scrissi e poi cantai qualche canzone, no? E tra queste canzoni cantai questa, no? Gli ho detto che racconta, e gli ho detto sì, e poi dopodiché hanno detto sì, va bene, però adesso cantaci qualche canzone un po' allegra, perché queste cose le sappiamo già benissimo, insomma, no? Però noi invece le sappiamo meno, quindi cioè canta un po' appunto la depersonalizzazione che il carcere è, insomma, qua. Caro padre, ti scrivo piangendo, questi righi per me dolorosi e che mi restano ma tanto ingollosi nel vedermi trattare così. E scrivendo la mano mi trema e di tutto vi faccio palese. E m'hanno tolto la veste borghese e m'hanno tolto la mia gioventù. Caro padre, che brutti momenti, e qui non contano né pugni e né schiaffi. E disse guardia, levate gli baffi, e l'avrei presa la spina nel cuore. E la mattina del 20 di marzo il guardiano mi venne a vedere e con sé ce l'aveva il barbiere e una scranna per farmi sedere. Con cattive maniere mi prese il rasoio, un lavea perfetto, e mi raschiava, pareva un capretto. E i miei baffini li vidi andar giù. Quando poi egli ebban fatto tutto, il guardiano m'accennò con un dito e disse: questo gli è il vostro vestito. E nel vedello mi fece trema. Questo numero che oggi indossate vi cancella dai nome e casato. 107 sarete chiamato e Rodolfo Foscati mai più. 107 sarete chiamato e Rodolfo Foscati mai più. Ovviamente era Rodolfo Foscati, perché prima ho detto Cesare Battacchi. Cesare Battacchi in realtà invece era il capo degli anarchici, posto ovviamente questo paradosso del capo degli anarchici, come Tognazzi il capo delle BR, so più o meno, che appunto invece riguarda un'altra canzone che è Il Maschi di Voltaire, insomma. Se volete invece vi faccio sentire appunto l'altro disco per cui sono venuto qui, che è il disco che è appena uscito e che di cui sono molto molto felice, che è il mio disco più bello in assoluto, e lo dico senza remora alcuna, si chiama Portami al confine. È un disco elettrico, diversamente dall'altro disco che ho fatto nel 2015, appunto, di canzoni mie, che era invece molto era un disco acustico. E ha in copertina un'opera di Alfredo Jarre, che è comunque uno degli artisti contemporanei concettuali più importanti che ci siano al mondo. Io mi illudo di essere come i Velvet Underground con Andy Warhol in copertina, ma Alfredo Jarre è molto meglio di Andy Warhol. Andy Warhol non ci è mai piaciuto, invece Alfredo Jarre ci piace. Insomma, Alfredo Jarre che ho contattato grazie al maestro Massimo Mazzone, il quale mi ha messo in contatto con Antonio Arevalo, artista cileno. Jarre è cileno, anche se trapiantato a New York, e il compagno Jarre mi ha risposto immediatamente dicendo sì sì, molto molto piacere, insomma, ti concedo l'uso della mia opera, insomma, anzi poi dopo mi ha scritto proprio: voglio sostenerti, grazie per le cose che fai, voglio comprarti un po' di dischi da dare ai miei amici, insomma, E insomma è bello che poi già del resto ha fatto una serie spesso anche qui a Milano, insomma, no? Quindi Giar ha fatto uno dei suoi neon, Vogliamo tutto, opera dedicata a Nanni Balestrini, insomma, quindi ha fatto un'altra opera famosa su Gramsci, no? Quindi insomma è uno abbastanza, aveva fatto un'altra opera famosa a Times Square, in cui aveva installato questo neon sull'America, no? Questa, This is not America. Invece questa è l'America ed era il continente americano, no? E non come voi newyorkesi dovete dire noi siamo l'America, insomma, e tutta una serie di installazioni varie, insomma, che, su cui nel frattempo mi sono informato, insomma. Invece questo disco è dedicato a Beckett, questa opera d'arte che sta in copertina infatti è I can't go on, I'll go on, no? Non posso andare avanti, dunque andrò avanti, che sono le ultime parole dell'Innominabile, che è il terzo libro, il terzo romanzo, grazie, questo il terzo libro della trilogia di Beckett, che per me è il capolavoro assoluto della letteratura novecentesca, ecco. Infatti il disco è, non è tanto a nome Marco Rovelli, ma a nome Marco Rovelli e l'Innominabile. Dopodiché l'Innominabile può essere la band, come, no? Neil Young and the Crazy Horse, Nick Cave and the Bad Seeds. L'Innominabile invece è quello che volete voi, cioè nel senso il senso dell'Innominabile è puramente performativo, cioè uno lo legge e dice chi cazzo è l'Innominabile, cioè è solo questo. E l'Innominabile ovviamente appunto è il terzo libro della trilogia. La prima canzone del disco è intitolata Beckett, Mari, ve la faccio. Ovviamente non è fattibile con questa chitarra acustica, perché l'ho concepita proprio per invece come orchestra elettrica, insomma, no? Se magari arriveremo a suonare qui ve la faremo sentire in quel modo. Ma così, giusto per darvi un'idea, perché sono tre accordi ripetuti continuamente questa canzone qua, quindi ovviamente non ha molto senso farla, ma ve la faccio lo stesso. Ed è una canzone su una delle frasi più famose che Beckett scrisse in Westward Ho, uno degli ultimi testi che scrisse, in cui, no, ever tried, ever failed, no matter, I'll try again, I'll fail again, I'll fail better, no? Ho sempre provato, ho sempre fallito, non importa, proverò ancora, fallirò meglio. Che è una frase multistrato, un concetto multistrato, a parte che è talmente famosa che tanta gente si fa i tatuaggi con questa canzone, con queste, no? Con questo testo. Ma insomma, evidentemente Beckett, quando parla di fallimento, parla del fallimento costitutivo del pensiero, del discorso umano, il fallimento dell'inattingibilità della vita rispetto alla parola, no? E il fatto di dover dire e di dover essere chiusi nel silenzio, ed è proprio questo silenzio che spinge un ulteriore dire e così via all'infinito, no? Non posso andare avanti, andrò avanti, è l'impossibile, no? È l'inaccessibile, è l'innominabile, ovviamente è il cuore stesso della vita, ma allo stesso tempo in questa roba si può leggere evidentemente il fatto che la vita è un fallimento, che il fallimento è essenziale nella vita, e che se la confrontiamo forzando Beckett stesso, che non era un critico del capitalismo, ma nel culto performativo della contemporaneità c'è evidentemente il rifiuto del fallimento, no? Il fatto di essere performativi, il fatto di essere all'altezza, il fatto di non dover fallire, di non poter mai fallire, invece fare l'elogio del fallimento, che è la vita stessa un fallimento, in una civiltà performativa come questa è qualcosa di profondamente e radicalmente anticapitalistico, insomma. Ho letto un graffito, una volta, no es depressione, es capitalismo, no? Ecco, e questo è il punto, insomma, no? Dopodiché poi, insomma, tra compagni il fallimento sappiamo bene che cos'è, e quindi proprio per questo siamo ancora qua, proprio per questo e non nonostante questo. Ho sempre provato, ho sempre fallito, proverò ancora, fallirò ancora, fallirò meglio, fallirò meglio. Ho sempre provato, ho sempre fallito, proverò ancora, fallirò ancora, fallirò meglio, fallirò meglio. Thank you. sentire ancora e poi fallire ancora. Vorrei fallire ancora meglio. Fallire è certo meglio che un niente da portare in tasca. È quasi un niente in tasca da portare al collo, come una scatola di sogni sparsi sull'asfalto, perduti per un altro fallimento. Fallire sogni, fallire amori, fallire ipotesi e dimostrazioni, fallire bersagli, silenziare suoni, fallire per non avere più niente da dire, fallire e poi provare ancora un'altra volta, perché si tratta di fallire meglio. E poi silenzio da farsi come un meglio, che non è mai troppo distruggere l'immagine. Vabbè, poi ovviamente c'è tutto un gioco strumentale, quello era veramente impossibile farlo dentro questa orchestrazione. Invece vi canto questa canzone che invece è molto più ballad, se vogliamo, è la ballad di tutto il disco, però fatta poi ovviamente anche questa in chiave elettrica, pure questa, ed è la penultima. L'ultima in realtà è una cover, l'unica cover del disco, che più o meno in tutti i miei dischi ho sempre messo una cover. Questa è una cover di una canzone meravigliosa di Claudio Lolli, che si chiama La Giacca, che è una canzone d'amore, ma non solo d'amore, è una canzone Portami al confine, si intitola questo disco, e qua c'è l'andare oltre, no? L'andare sempre avanti, l'andare oltre il confine. C'è la voce di Claudio qua dentro, che questa è stata, ahimè, la sua ultima incisione nella vita. Io andai a casa sua, era marzo, se non ricordo male, per incidere la sua partecipazione a questa canzone qua. Poi ad agosto Claudio, dell'anno scorso Claudio è morto. E quindi mi sono trovato con questo dono straordinario, insomma, che Claudio mi ha fatto. Insomma, no? E dicevo prima che adesso sto scrivendo un libro, ho cominciato a scrivere questo libro che è la biografia di Claudio, che conto di finire, insomma, entro l'estate prossima, e quindi mi sto lanciando, insomma, nell'ascolto di questo coro di persone che circondavano Claudio, che mi raccontano la vita di Claudio e che mi raccontano poi tutto quel mondo che era dentro la storia e la vita di Claudio, dentro le canzoni di Claudio, no? E quindi, però questa non ve la posso far sentire perché non la so suonare. La chitarra me la suona Paolo Capodacqua, che è il chitarrista di, appunto, il chitarrista storico di Claudio dagli anni 90 in avanti, che aveva già partecipato peraltro al mio disco precedente, perché metà delle canzoni del mio disco precedente le suonava con la chitarra appunto Paolo Capodacqua. Ecco, insomma, prima di questo della giacca c'è questa canzone che ho scritto poco prima di andare in Kurdistan, quando nel 2015 appunto andai ad agosto in Kurdistan. Il mese prima c'era stata un attentato a Suruci, ero andato appunto nel Kurdistan iracheno, a Mahmur, e a Suruce, che è di là dal confine rispetto a Kobane, no? E quindi tanti ragazzi volevano andare a Kobane per ricostruire Kobane, per portare viveri, eccetera, eccetera, ma non ci arrivarono mai, perché a Suruce, nella cittadina di Suruce, 32 ragazzi e ragazze morirono con un kamikaze jihadista che si fece esplodere con la complicità dei servizi segreti turchi, no? E quindi scrissi di getto, insomma, proprio, il giorno stesso, insomma, questa canzone. Che si intitola Il Confine, che l'ho intitolata Il Confine, appunto, che ovviamente poi è per tutti i ragazzi, no? che attraversano i confini al mondo, insomma. Sangue, cieco e desolato, legione di miserie, ben misero peccato, che non scioglie lingue, pietra nera dentro il cuore, ed impone il suo deserto in assenza di parole. Maledetto quello sguardo opaco di dolore, che ha scelto di imbottirsi del suo Dio sterminatore, e ha sciolto nel suo grembo infecondo e inconsolato chi gioiva della vita e dalla vita era abbracciato. Maledetti i presidenti senza cuore e troppi nervi, che fan strame della gente grazie a tutti i loro servi, e con mani inanellate e il sigillo della morte benedicono macelli e si chiamano fratelli. Dove ritroveremo il rosso dei nostri passi? Dove riascolteremo il verde di quel silenzio? Dove il giallo del grano ci illuminerà domani? Ora che siamo vento, radici e chi lontani, sui nostri passi adesso verrà un altro cammino. Il nostro sguardo è il vostro, vostro è il nostro destino. Il sole non smette mai di far luce all'orizzonte. Il vento soffierà sempre dalla cima di un monte. Sia chi ascolta e sta allerta se luce viene, chi ascolta le voci vinte e riscatta le catene, e da casa si mette in viaggio perché un battito di ciglia è lo spazio dell'universo, il tempo di una meraviglia. Benedetto sia chi lotta e ride di bellezza e conserva dentro al pugno tutta la sua giovinezza, che seppellirà quel Dio bavoso e indemoniato, e non ci sarà che vento che la terra avrà liberato. Benedetti quei ragazzi che andavano al confine per oltrepassare i limiti di tutte le paure, per leggere il futuro e donarlo ai loro eguali, e nonostante tutto sono loro gli immortali. Dove ritroveremo il rosso dei nostri passi? Dove riascolteremo il verde di quel silenzio? Dove il giallo del grano ci illuminerà domani? Ora che siamo vento, radici e chi lontani, sui nostri passi adesso verrà un altro cammino. Il nostro sguardo è il vostro, vostro il nostro destino. Il sole non smette mai di far luce all'orizzonte. Il vento soffierà sempre dalla cima di un monte. sorride di bellezza e conserva dentro al pugno tutta la sua giovinezza. Santa Vergine. Canto una canzone. Una volta avevi provato a farla tradurre in francese, poi non siamo mai riusciti. Viva i buffi di cuore, col cuore a sbuffi che non sa parlare, ma che si sdoppia fino a scoppiare, ritrovare l'aria che sembrava mancare. Viva i buffi di cuore, che non sono mai ben informati dei fatti, ma sanno con certezza che l'aurora tra le rovine si mostra a strappi. E viva loro che non hanno paura di abitare in case sghembe e storte, meglio una vita inquieta ed insicura che quadrata e gelida come la morte. E viva loro che vedranno Dio, o almeno riusciranno a guardarsi, negli sguardi c'è un labirinto che ci si perde per poi trovarsi. Viva chi ha il cuore appeso a un filo fine di ragnatela e oscilla al vento come fiamma accesa, volata via dalla sua candela. Viva i trampolieri del cuore che all'aria sventolano le radici come bandiere tutte stropicciate e non si chiedono se sono felici. Viva chi ha il cuore pericolante come una soffitta carica di lutto. Tra quei bauli c'è una pozione magica che ti farà dimenticare tutto. E viva loro che vedranno Dio, o almeno riusciranno a guardarsi. Negli sguardi c'è un labirinto che ci si perde per poi trovarsi. Viva i buffi di cuore, col naso rosso e addosso uno straccio, che stabiliscono coi loro inciampi l'equivalenza tra un santo e un pagliaccio. Viva chi vive nell'istante e regge lo squaderno del mondo e prende volo sopra il precipizio, ed è un miracolo che non va a fondo. Si può tradurre letteralmente, ma poi rendere bene, adattarla non è facile. Comunque non siamo neanche arrivati alla traduzione letterale, cioè poi figuriamoci dell'adattamento. Vabbè, ovviamente le canzoni poi più rock è impossibile veramente farle qua, insomma. Ne canto l'ultima, che è una canzone che volevo un po' raccontare il mondo del lavoro oggi, e si chiama Tempo Rubato, il tempo, che il plus valore nasce dal plus valore, e quindi dal tempo rubato lo sappiamo non da oggi, insomma, no? Ma insomma oggi c'è una condizione ancora diversa, e quindi ovviamente questa è una canzone con un sacco di roba, di batteria sotto, ma insomma più o meno lo scheletro è questa roba qua. Thank you. mani sui manubri di operai a pedale, la pizza da portare, l'algoritmo che fa male, che ti morde anche la notte, quando dormi, quando sogni, e ti trovi a pedalare ancora, e i tuoi bisogni li hai dimenticati sulla tua porta d'ingresso. Domani tanto un altro giorno, o sempre lo stesso. Mani su tastiera e l'usura nelle dita, arrivare a fine mese è un'impresa con la tua partita IVA, con il tempo che non basta, che non pare cosa viva, ma un sepolcro di lavoro che si mangia la tua vita, che si inghiotte i desideri, che formatta l'avvenire, ma il futuro in questo tempo è una cosa da non dire, l'avvenire che una volta rimava con il sole, ma un tempo tutto buio si è inghiottito le parole, quelle che fan segno a un tempo liberato e lento, e non resta che cantar senza dir niente, ma potresti voler tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che ti aspetta, ma potresti voler tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che ti aspetta. Mani nere di fatica, ma bianca è una morte, che per chi ha le mani nere viene per cattiva sorte. La cattiva sorte è un dono che gli dèi del capitale fanno a chi ha le mani bianche, e sa che non è uguale a chi ha le mani troppo nere, che stringono le sbarre di una gabbia, mentre il tempo se ne scorre come sabbia e scivola nel mare, che forse hai traversato, ma forse ti conviene aver dimenticato tutto, quasi tutto, quasi niente, forse niente, meglio niente, che questo niente è del tutto uguale a trapiantarsi un cuore per smetterti star male, ad aspettare l'alba per cantare. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che mi aspetta. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che mi aspetta. Il fuoco che sprigiona un tempo nuovo, la festa che diviene, il tempo che rinasce mi appartiene. Un grappolo di suoni senza fine che si eleva al cielo, perché nostra è la forza, perché nostro il coraggio, perché nostra è la gioia. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che mi aspetta. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un canto comune, un altro tempo che mi aspetta. Grazie. Io spero di avervi intrattenuto un poco. E se volete, visto che siamo davanti al tavolo, no, questo mi diverte un sacco. Proprio veramente per fare proprio l'osteria, insomma, totalmente. Vi faccio la prima canzone che ho fatto in concerto con l'ukulele. Ecco. Anzi, no, ve ne faccio un'altra, va. Vediamo se è accordato, però. No, perché veramente ce l'ho da giugno l'ukulele, e non è che so tutti gli accordi, devo vedere che qui ci siano tutti gli accordi. No, in realtà questa cosa non l'ho mai fatta, l'ho fatta diverse volte al tavolo, ma non l'ho mai fatta in concerto, ma questo non è un concerto, quindi. Vabbè, from down in the valley. Well, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down to the river, and into the river we'd dive. Oh, down to the river we'd ride. Then I got married pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. The night we went down to the river, and into the river we dive. Job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things seem so important, well, miss, they vanish right into the air. Now just like I don't remember, Mary acts like she don't care. I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on the banks I'd lie awake and pull her clothes just to feel the breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, yes, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true, or is it something worse? Sends me down to the river, though I know the river is dry. Sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river where I. È da buon rocker, ho spaccato anche la corda vocale, così non se ne parla più. Grazie amici in ascolto in streaming, se volete comprare questo disco che è il disco... No, telecamera è di qua. Lo streaming, telecamera, streaming, tutto. Questo. Grazie Marco, questa serata. Maremma dice? No, terza era Battanlotto, la terza. No, sono, direi che sono molto diversi. Cioè, gli accordi sono quelli, ma sono quelli per il 90% di quelle canzoni. Sì. Maremma partire partirò, una delle prime canzoni antimilitariste. Sì, perché poi alla fine quello è un modulo che è quello e poi ci facevano una cosa, l'altra, no?